9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Non chiedetevi come mai Oscar vi va a continuare a iniziare le trasmissioni e a chiuderle in questa settimana con This is the End, The Doors, l'attacco musicale del film Apocalypse Now, perché come vedete la nostra analisi, che trovate accuratamente scritta oggi come tutti gli altri giorni sul Sole 24 Ore, rinviata e rimbalzata sui nostri notiziari, le nostre trasmissioni di approfondimento intorno alla crisi che vivono i mercati e alla crisi che avanza galoppando nell'euroarea, non è infondata, non è allarmistica, purtroppo è semplicemente un richiamo alle responsabilità delle classi dirigenti, ora che l'Italia ha fatto un passo avanti col governo Monti, allontanandosi dall'accusa di essere la bomba che detonava e faceva esplodere l'euroarea. Analogo problema riguarda tutta l'euroarea e misure necessarie, urgenti, all'altezza del guaio sono necessarie a brevissimo oramai, perché il deterioramento avanza, e per questo noi teniamo questa canzone, diciamo, poco allegra, un po' inquietante, su una fine della cultura occidentale che Jim Morrison scrisse nel 1966. Perché questo? Se facciamo una galoppata sulle notizie sulla stampa internazionale stamattina, troviamo che le reazioni ieri a due ulteriori tendenze negative, quella francese oramai è consolidata, la Francia è come se l'avesse persa, la tripla di cui continua a godere formalmente, ma ieri che cosa è avvenuto? Che dopo un inizio di reazione positiva dopo l'elezione spagnola e le vittorie dei popolari di Mariano Rajoy, invece gli spread spagnoli sono di nuovo tornati verso i 500 punti. Perché? Perché i mercati si interrogano da una parte sul fatto che Rajoy ha vinto le elezioni senza proposte concrete però di ulteriore stretta fiscale, ha detto ovviamente il mercato se le aspetta ma lui non le ha articolate, e dall'altra parte naturalmente un'ulteriore stretta depressiva dopo le tre manovre insufficienti del governo Zapatero significano ulteriore aumento di disoccupazione e deflazione nel paese. Seconda tendenza, anche l'Austria oramai è pienamente allineata al deterioramento, praticamente procede di conserva con il peggioramento degli spread francesi, e il suo decennale ha uno spread oramai di 350 punti base, e tenete conto che l'Austria è da sempre considerata pienamente integrata con la Germania, ha un attivo nella parte corrente dei suoi conti, ha una delle migliori performance fiscali nell'euroarea, e la misura dell'aumento degli spread anche austriaci dà l'idea che la scommessa oramai è una tenuta dell'euroarea in quanto tale. Non a caso ieri la banca centrale austriaca ha deciso di abbassare le sue garanzie sui depositi per la parte dei crediti che le banche austriache hanno nell'est Europa, altro segnale che è stato interpretato come una crisi che avanza di mancata tenuta dell'Austria come il centro della parte dell'euroarea più integrata alla piattaforma eurovirtuosa, quella germanica. Nel frattempo, lo sapete, sullo sfondo del tour europeo che comincia oggi del premier italiano Monti con Barroso e poi proseguirà con Merkel e Sarkozy, il no ribadito ieri da Angela Merkel alle tre diverse proposte di Eurobond per tutela dei debiti pubblici con garanzie ancora in liquido totali oppure parziali degli stati euromembri, ma impegno della BCE almeno su una parte parziale delle vecchie emissioni in scadenza dei titoli del debito pubblico, il no è non solo del cancelliere tedesco ma anche dei leader dell'FDP, del partito alleato della CDU, CSU, quindi da questo punto di vista non ci si sblocca per così dire, e anzi sul Frankfurter Allgemeine di oggi un attacco a Barroso, un profilo del Presidente della Commissione con giudizi in realtà motivati secondo me sulla perdita di credito che la Commissione Europea ha nell'attuale gestione Barroso di fronte al fatto che alla Germania in realtà si è chiesto quasi da sola con i suoi alleati nell'euroarea di sostenere il peso della virtù e della difesa dei trattati e dello statuto della BCE. È ovvio che le critiche a Barroso sono un no della Frankfurter Allgemein alla tesi degli eurobond. Nel frattempo in Belgio è venuto a meno il tentativo di Elio Di Rupo di formare il nuovo governo, 520 giorni, mandato rassegnato nelle mani di Alberto II, altro segno non esaltante della tenuta dell'euroarea. Ancora, rispostiamoci in Grecia devono rivotare in Parlamento entro la fine del mese sulla nuova tranche da 130 miliardi di euro in arrivo con la decisione concreta sulla misura dell'haircut, del taglio dei capelli, cioè del taglio del valore dei titoli che vanno in scadenza all'eurodebito intorno al 50%, e il ministro delle finanze Venizelos ha detto che le garanzie della Banca Centrale greca devono essere raddoppiate in ordine a garantire la liquidità nel sistema. Il bankrun, il ritiro dei depositi dalle banche greche ha assunto oramai una percentuale, siamo passati da un quinto a un quarto del totale dei depositi, e l'inizio di un bankrun europeo, punto interrogativo, ma è per questo che il ministro delle finanze Venizelos deve chiedere alla Banca Centrale di raddoppiare le garanzie fino a 60 miliardi di euro verso il sistema bancario greco, le banche commerciali greche. Nel frattempo il Financial Times Deutschland non si risparmia stamattina un attacco, questa volta alla responsabilità del governo delle finanze tedesco, quindi come vedete la virtù tedesca non fa sconti a nessuno, perché dice il ministro Schäuble non sta rispettando il piano che era stato assunto per diminuire il deficit, al contrario il ricorso al mercato, quindi l'indebitamento netto del sistema pubblico tedesco, è cresciuto da 22 a 24 miliardi di euro quest'anno e cresce a 26 miliardi di euro l'anno prossimo. E quindi Financial Times Deutschland dice anche i tedeschi fino in fondo non fanno il proprio dovere. Questo è lo scenario che trovate sui giornali europei dopo la giornata di ieri. Il deterioramento è molto rapido, vediamo se la classe dirigente europea capisce che bisogna adottare misure. Oggi in questa prima parte abbiamo con noi il professor Roberto Dalimonte, che insegna politica comparata alla Luis, editorialista del Sole 24 Ore. Con il professor Roberto Dalimonte vorremmo capire che cosa la nascita del governo tecnico ci fa capire. Abbiamo visto i sondaggi che sono usciti in questi giorni in ordine al fatto che la percentuale di italiani che sostengono questo passaggio politico è elevatissima, 80, superiore all'80%. Sembra che anche i partiti da una parte e dall'altra, che danno sostegno in Parlamento all'impegno del governo d'emergenza, consolido, vanno bene, sia PD che PDL sono in recupero rispetto all'aperta del PDL precedente. Lo stessa cosa non avviene invece a chi sulle estreme dice no, e questo riguarda soprattutto la Lega. Il punto su cui vi chiediamo le telefonate è proprio questo, perché con Umberto Maroni in questi giorni la Lega sta assumendo un profilo di attacco più duro quasi nei confronti del governo. Ieri in un'intervista Oggi Umberto Maroni ha detto no, questo governo per il momento solo tasse, ma il problema è non solo diciamo noi tecnici, siamo convinti che questa sia una manovra che porterà poi a un governo di Corrado Passera, che è il vero motore politico, non il professor Monti, di questa coalizione nel 2013, che modificherà l'offerta politica. E noi diciamo al PDL: state attenti a non farvi sedurre a questa nuova offerta politica, perché è mirata a tagliare le ali la Lega da una parte, ma dall'altra anche la sinistra antagonista con la nuova legge elettorale. Noi su questo daremo battaglia a costo di far partire tutte le alleanze nelle giunte locali, e tenete conto che c'è un turno amministrativo e decisivo per il PDL, tentare di non perdere rapporti con la Lega, oltre le regioni del nord, Piemonte, Lombardia e Veneto, con cui si governa insieme, una Formigoni, Lombardia, guida PDL, le altre due con Cota e è un esponente leghista invece anche in Veneto. Diteci nelle telefonate più avanti cosa pensate di questo no della Lega, e se pensate che frutterà oppure no alla Lega, e cosa significherà per il PDL. Ma chiediamo intanto al professor Roberto Dalimonte, sua opinione, prima domanda: questo consenso degli italiani così forte che si vede è un consenso che scavalca le appartenenze e sostegni ai partiti precedenti secondo lei, o è troppo presto per dirlo? È troppo presto per dirlo. Oggi possiamo dire che in paese si sente il bisogno di unità, e questo governo riflette questa sensazione, questa percezione, che siamo in un momento di crisi, che siamo in guerra. In guerra bisogna sospendere lo scontro, la competizione, bisogna ritrovare unità, e questo che il paese vuole, l'unità in questo momento. La sua impressione alla luce di quello che sappiamo di quando si sono formati anni fa governi di transizione alla fine della Prima Repubblica è che chi opina, immagina che ne possa discendere un'offerta politica rispetto al bipolarismo che abbiamo da 17 anni a questa parte sia così una legittima opinione ma non tanto fondata dal punto di vista politologico da ciò che è avvenuto fino a questo momento con i governi di transizione precedenti, oppure proprio la portata di questo consenso, la consapevolezza dell'opinione pubblica in realtà potrebbe dare qualche appiglio in più a chi ragiona in quel modo? Innanzitutto dobbiamo stare attenti, questa unità, questo consenso, questa larga popolarità di cui gode il governo Monti va messa alla prova poi dei provvedimenti che andranno in Parlamento. Vedremo quando Monti presenterà le sue proposte e cosa succederà, se gli italiani torneranno a dividersi destra e sinistra. Ma la variabile cruciale per cercare di capire il futuro, secondo me, è l'unità del PDL, cioè lei parla di bipolarismo. Il bipolarismo è legato alla sopravvivenza di un polo moderato, di un centrodestra più o meno unito, e questo vuol dire l'unità del PDL. Se il PDL si sfarina completamente, si sfalda, allora direi che è possibile che poi il Parlamento passi una legge elettorale che metta fine al bipolarismo. Se Berlusconi riesce a tenere unito il PDL, allora anche dopo il governo di transizione resteremo dentro uno schema bipolare. E questa è la prima condizione, quindi la variabile da tenere sotto osservazione è l'unità del PDL. E la seconda variabile è il rapporto PDL-Lega. Questi sono i due fattori decisivi. Tutto sommato l'alternanza tra posizioni di compartecipazione, sia pur combattiva, critica e con il linguaggio a cui ci è sempre abituato, con il PDL da parte della Lega, con un'alternanza poi di periodi in cui la Lega rinsalda per così dire la propria base identitaria tornando a fare un passo indietro rispetto alla compartecipazione diretta di coalizioni nazionali di responsabilità di governo, è la parte meno sorprendente se avvenisse, non trova? Dunque la Lega si è separata, come sappiamo bene, dal PDL alla fine del 94 ed è rimasta per conto suo fino diciamo intorno al 99, prima delle elezioni regionali del 2000. In questo periodo ha visto una salita notevole dei suoi consensi. Beh, diciamo che partiva già dall'8% nel 94, è arrivata a sfondare il 10% nei collegi uninominali del Nord nel 96 correndo da sola, per la precisione 10,8, che è il suo massimo storico ancora oggi per quanto riguarda le elezioni politiche. Poi però 5 anni dopo era scesa sotto il 4, un 3,9, tant'è che non prese neanche un deputato proporzionale. Poi l'alleanza con il Cavaliere non ha pagato immediatamente perché è rimasta intorno al 4% per diversi anni, poi nella fase diciamo qui finale di questo ciclo invece abbiamo visto che allo smottamento del PDL, di una parte della base elettorale del PDL ha corrisposto un aumento della Lega fino alle elezioni amministrative. Diciamo che l'espansione massima della Lega è arrivata nella fase collaborativa col PDL alle regionali, quando la Lega sembrava destinata a diventare il primo partito del Nord. Poi si è innestato di nuovo un ciclo discendente. Non sappiamo cosa potrà succedere. Certo, per la Lega anche questa è terra incognita, quindi staremo a vedere. Spostiamoci un secondo sull'altro estremo dell'asse politico, quello del dove c'è Michi Vendola, Sel, Verdi, insomma la sinistra antagonista, uscita dal Parlamento direttamente per le scelte che fece il PD con Di Pietro, rafforzata in tutti i sondaggi in maniera crescente man mano che emergeva la crisi e l'Italia si inoltrava nelle difficoltà crescenti di nuovo rallentamento molto forte della crescita, aumento della disoccupazione e così via. Da questo punto di vista oggi qualche giornale titola, la stampa titola di un imbarazzo del PD di fronte a un Vendola barricadero, una specie di Bossi di sinistra. Questa traduzione di ciò che si vede nei sondaggi rispetto a un consenso politico radicato di fronte ai provvedimenti del governo che possono venire e si possono immaginare, magari potrebbe essere anche rafforzata, oppure no, secondo lei? Beh, sì, perché nella sostanza la Lega da una parte e la SEL dall'altra vogliono fare quello che in inglese si chiamano i free riders, no? Vogliono capitalizzare su una situazione di possibile malcontento quando il governo Monti comincerà a incidere con i suoi provvedimenti sugli interessi sia dell'elettorato di destra che di sinistra, quindi si mettono in una posizione di poter intercettare questi voti in uscita dai due schieramenti. Vedremo se questa posizione paga, perché poi mi ha tenuto conto che se non cambia il sistema elettorale le alleanze bisognerà pur farle, e a quel punto si vedrà. Certo, la coalizione del SER mette in difficoltà il PD, ma il PD è in difficoltà in ogni caso adesso, perché si deve reinventare una strategia in una situazione che è ancora molto molto confusa diciamo nel medio lungo periodo, perché ancora non si vede bene cosa succederà, quello che dicevo poco fa. Un conto è che il PDL resti unito, e allora questo vuol dire per il PD un certo corso d'azione. Se il PDL non resta unito, per il PD secondo me c'è qualche problema in più nella una futura possibile strategia, per esempio, di alleanza con il centro. Posso chiedere, secondo lei, l'opinione che si è fatta in questo ultimo anno e mezzo, osservando le ricerche demoscopiche intorno a come gli italiani la pensano sulla legge elettorale attuale, non tanto sulla parte che scandalizza tutti e trasversale, cioè quella del meccanismo di scelta bloccata dei candidati, quanto sul premio di maggioranza e sulla modalità di attribuzione del premio di maggioranza? In realtà la sua opinione è che per gli italiani questo meccanismo è un meccanismo che vale la pena ancora di essere difeso, oppure prevarrà la modifica delle loro opinioni rispetto al governo che è partito anche su questo punto? Io faccio fatica a spiegare ai miei studenti come funzionano i sistemi elettorali. Se l'immagina milioni di italiani, uomini e donne della strada, cosa possono capire sul funzionamento di sistemi elettorali complessi? Intorno al sistema elettorale si fa tanta retorica e poca informazione. Per cui anche la legge Mattarella, ne immagini quanti italiani possono ricordare effettivamente come funzionava la legge Mattarella. E quanto al premio di maggioranza, i premi di maggioranza vengono utilizzati in tutte le arene subnazionali. Col premio di maggioranza si sceglie il consiglio comunale, il consiglio provinciale, il consiglio regionale. E il premio di maggioranza ha funzionato bene in tutte queste arene subnazionali. Quindi, capisce, non si fa una gran confusione, tanta retorica sui sistemi elettorali, sono sistemi complessi su cui è difficile che il cittadino comune abbia una reale conoscenza dello stato delle cose. E quindi su questo poi in realtà sono i politici e i giornalisti che ricamano. Io mi trovo molto in questa conclusione finale, perché effettivamente è proprio un frutto di immaginazione pensare che questo sia il tema centrale. Allora, la seria e rigorosa analisi del professor Delle Monte ci ha indicato due punti fondamentali. Innanzitutto, uno riguarda la Lega e l'altro la tenuta del PDL per il centrodestra, una difficoltà del PD che si deve reinventare di fronte alla necessità di sostenere magari per un anno e mezzo questo governo, e una chiara intenzione alle due estreme, chiamiamole così senza che si offendano i rispettivi elettorati, Lega da una parte, SEL dall'altra. Queste sono le coordinate politiche rispetto alle quali il governo si trova nella condizione di fare presto, bene. L'imbarazzo dei ministri che non parlano a me fa enorme piacere, così ci sono meno chiacchiere e ci concentreremo tutti sui provvedimenti quando verranno. L'imbarazzo è tale che la cifra su alcuni quotidiani italiani passa oggi, una stima della manovra in arrivo, da 11 miliardi fino a 4 volte tanto, e questo ci dà l'idea di che cosa possa capitare quando la stampa non viene più rifornita da troppe chiacchiere dei politici. Per fortuna ne abbiamo avute troppe, ora meno. Grazie al professor Delle Monte, ora andiamo in pubblicità. Eccoci tornati qui in studio dopo le sobre analisi del professor Delle Monte. Iniziamo con qualcuno di voi, qualche telefonata che possa dirci come la pensate, come la vivete, se siete militanti o ex elettori della Lega o del PDL, o se siete anche sostenitori dell'altra parte, oppure siete delusi da tutti. Io sono un po' di quest'ultima linea, a dire la verità, lo avete capito articolando nel tempo in maniera crescente la mia critica a tambur battente nei confronti di ciò che non ho capito, perché il governo precedente ha rinviato, non ha fatto e spessissime volte smentito facendo l'opposto. La delega fiscale, per esempio, che vale 4 miliardi di euro l'anno prossimo, poi ne vale 16 il secondo e 20 il terzo, perché fin dall'inizio tenerla fine legislatura, mistero per me, a dire la verità. Non ho mai pensato che nella crisi non si dovesse fare la riforma fiscale, al contrario, ho pensato che fosse un'occasione straordinaria per utilizzarla a riequilibrare il peso eccessivo su lavoro e impresa, il riordino delle deduzioni e detrazioni attraverso cui riscrivere il welfare. Ieri, trovate sui giornali di oggi, ha compiuto la sua analisi il quarto gruppo di lavoro, quello che era stato messo a lavoro dal ministro dell'economia Giulio Tremonti, quello coordinato da Vieri Ceriani, e abbiamo la fotografia di che cosa comportano le 720 agevolazioni oggi esistenti nel nostro ordinamento, e c'è un minore incasso per 254 miliardi, ma ci sono lì, c'è il più degli incentivi, pochi, scarsi, magri, per esempio alla famiglia, e ci sono poi invece molte cose su cui si può intervenire, diciamo. C'è un ambito di 2 punti di PIL, più o meno come ordine di grandezza, una trentina di miliardi su quei 254 miliardi, che effettivamente consentirebbero di spostare il sostegno, gli incentivi pubblici, laddove esso è invece carente rispetto agli altri paesi europei, e di trovare quindi fieno da mettere nella cascina, per esempio, della modifica degli integratori al reddito in una prospettiva di flexicurity. Perché tutto questo non è stato fatto? Comunque, iniziamo sentendo Mario da Verona, come la pensa? Sì, buongiorno dottor Zannino. Senta, io vorrei parlare in particolare sul comportamento appunto della Lega, sì. La quale mi è sembrata una compagine politica che abbia voluto approfittare di questo momento. E lei sostiene che, lei la Lega, intendo dire, che in Monti vuole aumentare le tasse. Io mi chiedo dove erano quando venivano tagliati i finanziamenti ai servizi pubblici. Quindi anche il loro voto è servito a tagliare i finanziamenti a questi servizi, e la conseguenza è stata l'aumento per i cittadini. Adesso ho l'impressione che ci abbiano portato in una situazione molto molto difficile, e si tirano indietro perché si è arrivato il momento di prendere queste decisioni. Ecco, non lo condivido nel modo più assoluto. E anche vero, le faccio notare che lei chiama da una città il cui sindaco Tosi, per un linguaggio meno estremo, diciamo così, e per un atteggiamento che anche gode di grande consenso in città e non solo nella città, ha quasi rischiato l'espulsione tempo fa. Poi nella Lega c'è anche un dibattito articolato. Infatti prima ho richiamato la posizione di Roberto Maroni in questa sua intervista oggi, che ho trovato sui quotidiani, perché Maroni e chi è più vicino a lui, tra cui il sindaco di Verona, appunto, non è un mistero, nei mesi precedenti, man mano che il governo erodeva la sua base di consenso, la sua operatività, ha dato spallate dentro per capire che in realtà, se non dava la spallata finale, era solo perché, dovendosi candidare al post Bossi, non può passare, certo, per una rottura interna del partito. Quindi si è rifermato, ma appena il governo è andato giù ha preso in mano il vessillo dell'opposizione più dura all'interno della Lega. Quindi secondo me c'è un calcolo su questo anche di leadership, per così dire interna. E proprio il ministro che era il più stimato per il suo apporto tecnico e di operatività all'interno del governo uscente diventa il più aspro contestatore della nuova formula e teorizzatore del fatto che sarà Corrado Passera poi a scendere in campo e modificare addirittura l'offerta politica. Sentiamo come la pensa Luigi, che ci chiama dalla provincia di Chieti. Prego Luigi. Sì, buongiorno Giannino, complimenti per la trasmissione. Volevo semplicemente dire che la posizione dei leghisti è a dir poco sorprendente. Quando sono al governo per 8 anni su 10, Roma ladrona non esiste. Quando invece vengono espromessi dalla possibilità di mettere le mani nei cassetti dei soldi, ah, ma noi ce ne torniamo a fare l'opposizione dura e pura, è una cosa veramente ridicola. E poi a proposito di chi contribuisce, diciamo, al debito pubblico, ho apprezzato tantissimo un suo intervento che ho trovato su internet, e che parlava appunto di chi spiegava molto bene chi sono stati i responsabili del nostro debito pubblico, ma sorpreso pure a me, per la verità. Quella spiego per chi è a casa, era una scomposizione della propensione a creare debito pubblico pro die, cioè per giorno, di tutti i governi della prima repubblica, e poi all'interno dei governi della seconda repubblica dal 94 in avanti, governo per governo, con i dati della serie storica della Banca d'Italia, e effettivamente si vede che, insomma, i record appartengono al primo governo Berlusconi, per ultimo, subito dopo viene il governo Berlusconi uscente, ci sono governi che innalzano molto la media più bassa di quelli del centro-sinistra, tipo il governo Amato alla fine della legislatura in cui ci furono tre premier, lo dico per chi è a casa e non ha capito, insomma. E quindi la sorpresa è di vedere che naturalmente a creare debito pubblico per giorno con la media più elevata sono stati quelli del centro-destra. Naturalmente questo poi non significa che la propensione al debito non possa dipendere da contingenze interne e internazionali, però il fatto è quello, le cifre sono quelle che trova, che ha ascoltato infatti in quell'intervento, e diceva appunto, mi scusi se l'ho interrotta, ma era per far capire chi era a casa. La inviterei a riproporlo magari anche più spesso, anche in trasmissione come questa. No, ma lo faremo, non voglio dire, non è niente di che, si tratta semplicemente di mettersi a tavolino. Ci sono degli equivoci molto grossi. Certo, capisco. No, uno degli equivoci molto grossi è di dire che il debito pubblico lo sia ereditato dalla Prima Repubblica. Però noi siamo in questo, adesso non voglio sottrarre molto tempo, noi siamo abituati a considerare il debito pubblico in percentuale sul PIL, e questo è un classico trucchetto con cui la politica in tutto il mondo fa capire meno ai contribuenti e agli elettori quanto debito pubblico aggiuntivo si fa, perché è ovvio che intanto il PIL cresce di nominale e di reale, nel frattempo sembra che il debito sia fermo, ma questo significa che cresce anche lui. Io invece lì ho usato una tecnica per la quale si va a vedere lo stock di debito pubblico, e quindi conta quello che c'era e quello che è aggiunto in più, a prescindere ovviamente dall'andamento del PIL, perché in realtà dovrebbe discendere sul PIL in un paese come l'Italia, e allora in quel modo si capiscono secondo me tante cose che altrimenti non si capiscono. Per esempio, sul totale di tutti i governi della Prima Repubblica, noi abbiamo sui 1980 miliardi di euro attuali che abbiamo accumulati, ne dobbiamo meno della metà del 1980 a tutti i governi dei primi 50 anni della Prima Repubblica, e questa è anche una bella sorpresa, no? Perché uno è abituato a dire ce l'hanno regalati i vecchi democristiani e socialisti della Prima Repubblica, e scopre che non è vero, perché ce ne hanno regalati 790 miliardi su 1980. La ringrazio di questo suo intervento, sentiamo ancora Andrea che ci chiama da Modena. Buongiorno signor Giannino, io sono anapolitico, sono diventato anapolitico perché non credo più praticamente a nessuno di quelli che parla lì in mezzo, però vorrei chiedere, visto che tutti questi italiani, noi italiani, no, siamo scontenti dei governi che ci sono perché rubano, perché mangiano, perché dicono e poi non fanno, eccetera eccetera, come mai non si possa fare un referendum e dire ok, questa classe politica non va più bene perché pensa soltanto agli affari suoi e basta, e non all'Italia sicuramente, ok? Mettiamo e lasciamo un governo tecnico, il quale penso riesca a mantenere i conti in ordine al 100%, e qualcheduno non andasse bene, sempre col referendum italiano, il popolo italiano che dovrebbe essere sovrano, ma a quanto pare non è sovrano per niente perché non decide mai niente, ok? Mandare a casa chi fa male. Io non lo so. Ragazzi, le direbbero i più che lei è un qualunquista, io invece un po' la capisco, ma le direbbero che è un qualunquista, e questo è il problema di fondo. C'è chi sostiene invece che la democrazia è sospesa, Giuliano Ferraro lo scrive tutti i giorni che la democrazia è sospesa dal governo attuale, e lei dice che magari i governi di chi sa sono meglio dei politici di cui non si fida. Quindi, come vede, il problema del suffragio universale e della democrazia rappresentativa rispetto a un mondo globalizzato che chiede decisioni rapide ed efficienti, e di cui rendere conto a quel giudice multimilionario fatto da molti milioni di attori che è il mercato e non da poche cupole di banchieri, e effettivamente chiede rapidità ed efficienza che con i vecchi sistemi della democrazia rappresentativa appaiono sempre meno compatibili. Questo spiega forse anche perché poi nel mondo vanno bene i paesi autoritari, vanno meglio di quelli con la democrazia rappresentativa complessa come quelli nostri, classicamente dell'Europa continentale. Per cui un governo ragiona in Spagna che abbiamo spiegato per mesi essere quello che portava lo spread incorporato del rischio paese spagnolo più basso di quello italiano, perché dicevano i mercati si fidano del fatto che ce l'hanno i popolari più vicini al mercato, invece poi vince davvero e lo spread sale comunque, perché dice ok, ma ha vinto senza spiegarci cosa vuole fare. Quindi è un po' complicata la questione sottostante alla sua osservazione, perché bisogna stare attenti a non sembrare antidemocratici naturalmente quando si toccano i tasti della sfiducia, che però mi sembra più che motivata nei confronti di ciò che la politica ci ha riservato. Giulio da Roma, prego. Giulio da Roma. Buongiorno direttore, la storia è maestra di vita. Per tanti secoli l'Italia ha subito la dominazione e il saccheggio dei francesi e dei tedeschi. C'era un famoso detto: o francesi o spagnoli, basta che se magna. Qui abbiamo la Lega che vuole addirittura la secessione dell'Italia. Nell'era della finanza globale, come lei ci insegna, la guerra si fa non più con i cannoni e le corazzate, ma con l'economia e la finanza. Lei sa che la borsa più grande del continente europeo è quella di Francoforte e rispetto a quella di Wall Street ha un volume di affari del 15%. Quindi se l'Europa è divisa come allora era divisa l'Italia, è molto semplice per la finanza far saltare prima il Portogallo, poi la Grecia, poi l'Italia. Forse si salverà soltanto la Germania. Però io sicuramente l'unico periodo in cui l'Italia ha avuto il boom economico è stato quando ha subito la dominazione americana e grazie al piano Marshall l'Italia si è salvata. Quindi io nei confronti dei francesi e dei tedeschi non ho fiducia e questo me lo insegna la storia. Lo so, però all'Europa. Però ecco, auguri all'Europa, però d'altra parte ci dovessimo riaffidare all'America, capisce che l'America, come si vede dalla commissione ieri straordinaria per raggiungere un accordo per la riduzione del deficit del debito, non l'hanno raggiunto neanche loro. L'America è gravata da un problema di eccesso di debito privato e pubblico che non è superiore a quello europeo, perché per rendersi sostenibile, a meno che non prendano decisioni straordinarie pure loro, implica un aumento della pressione fiscale che fino a questo momento è incompatibile con la storia americana che conosciamo e che produce fortissime reazioni da parte dell'elettorato. L'abbiamo visto con i Tea Parties, che sono quelli che obiettivamente hanno impedito a repubblicani e democratici a oggi di poter più raggiungere un accordo bipartisan intorno a come abbattere l'eccesso di debito. Tanto per ricordarci, in 232 anni di storia americana l'intero debito federale americano era arrivato a 10 trilioni di dollari, 10 mila miliardi di dollari. Nei tre anni e mezzo della presidenza, nei tre anni di presidenza Obama, è cresciuto il 45%, è passato da 10 mila miliardi di dollari a 14.500 miliardi di dollari, il tetto federale che si stava sfondando nello scorso agosto. Questo per darvi l'idea, ed è una contabilità pubblica molto stretta, perché se dovessimo aggiungerci tutta la parte pubblica della sanità, delle pensioni, i veicoli totalmente pubblici immobiliari, noi arriveremo a multipli di quel 100% del PIL americano. Se ci mettiamo poi tutto il debito privato, il sistema bancario e del sistema delle imprese, noi arriviamo al 400% del GDP americano, quindi una condizione molto molto molto pesante. Davide da Torino, prego Davide. Buongiorno Oscar, complimenti per tutto, soprattutto per i tuoi papillon. Comunque, io volevo fare una domanda in estrema sintesi, perché non è semplice, visto che tu sei molto preparato, ma perché, visto che già 10, se non sbaglio 12 stati in Europa si sono chiamati fuori dall'entrata dell'euro e non mi sembra che stiano male, perché c'è questa quasi sorta di indicibilità nel dire torniamo alla nostra moneta o ancor più facciamone un'altra, cioè non so, Italia, Spagna, Francia, Germania. Ti dico Davide, ma no, ti spiego subito perché poi è un problema di fondo, però questa è una delle classiche cose che bisogna tentare di spiegare in maniera rapida ma anche chiara alla gente, perché quando si entra in una valuta comune, uscire, per chi non è mai entrato è rimasto con la sua valuta e quindi non c'è problema, per così dire, può avvantaggiarsene se usa il cambio per fare più competitività, o magari se è anche bravo a fare produttività nella parte dell'economia reale, la valuta diventa poi espressione del fatto che avrà una buona bilancia dei pagamenti. Per chi se l'è data una valuta comune, uscire significa dovere con provvedimenti di assoluta emergenza e rapidità in un solo fine settimana ridenominare il sistema dei pagamenti, tutto ciò che depositi, cose eccetera, in una valuta o la precedente, nel nostro caso la lira, o una nuova con nuovi rapporti di cambio, ovviamente, che poi bisogna vedere come il mercato oscillando prende. Seconda cosa, al di là di questa straordinaria difficoltà tecnica, che però si può superare, c'è la seguente questione: quando sei debole rispetto, come è il caso degli euro deboli, per andamento dell'economia reale e perché per premi rischio paese sullo spread dei tuoi titoli e debito pubblico, e dovessi decidere di fare una specie di euro del sud, un euro latino, questo significherebbe che per qualunque banca, come per qualunque impresa internazionalizzata, qualunque partita individuale, per un risparmiatore che però ha anche cose all'estero, si spezzerebbe la parte di attività e passività in estero, che resta denominata o in euro o in dollari, rispetto a quella interna che invece torna una denominazione in euro latino oppure in lire, inevitabilmente destinata a quel punto a svalutarsi tra il 30 e il 40%, nel nostro caso per i paesi euro latini attuali. Quindi noi avremmo nella parte domestica una parte di attivi che varrebbe il 40% in meno, mentre i debiti sull'estero rimarrebbero denominati e si apprezzerebbero di quella stessa proporzione. È evidente cosa succede. Succede che per migliaia e migliaia di imprese, posizioni individuali, personali dei risparmiatori, andrebbe per aria questo effetto. Comporterebbe fallimenti di massa, molta disoccupazione lì per lì. Poi, nel breve medio, un paese può riprendere con la svalutazione, come ha fatto l'Argentina, ma nell'immediato l'effetto depauperamento è bestiale. Questo è bene che voi lo abbiate chiaro. Se invece a uscire dall'euro è sono i paesi, diciamo così, più virtuosi, in quel caso a loro capiterebbe il contrario. Loro rimarrebbero con la parte di attività e passività denominata fuori in euro e dollari, ma la parte interna si apprezzerebbe del 20-30%, e allora in quel caso ci rimetterebbero meno. Attenti però che l'uscita, come vedete, comporta abbattimenti reali di proporzioni tra il 30 e il 40% di ciò che resta poi denominato in una valuta che apparentemente vi fa sembrare le cose uguali. Ma non è così, perché quelli si chiamano fallimenti di un paese. This is the end, beautiful friend. Beautiful friends, non vorrei che equivocaste, io non c'ho alcun tono di compiacimento nell'usare questa canzone ipnotica sulla fine dei valori dell'Occidente, però questa crisi del modello di intermediazione che ci accompagna dall'estate 2007 è una crisi di un modello su cui l'Occidente è andato avanti. E guardate ciò che ci viene restituito dall'immagine dei governi di destra come di sinistra europei in questi ultimi 10-15 anni, e ciò che ci viene restituito dalle corresponsabilità dei democratici e dei repubblicani sulle riforme regolatorie che hanno dato all'eccesso di finanziarizzazione tutto il combustibile per fare il danno che hanno fatto. Ci insegnano che la politica di fronte a chi crea le bolle finanziarie, cioè alimenta valori ipersostenuti di prezzi degli asset, quelli immobiliari, a quelli di internet e così via, alla politica questo piace sempre, perché può sempre evitare di dire alla gente la verità, e cioè che ci vuole produttività nell'economia reale e rigore al più basso tasso di spesa pubblica compatibile con un welfare decente e con l'efficienza di un sistema pubblico non ipertrofico. Questo è il politico, sia la prima che la seconda cosa, tenderà quasi sempre a non dirvelo. Quel quasi sempre è l'eccezione dello statista che sa vedere lontano. Ce ne sono pochi, non è detto che siano tutti da una parte o dall'altra, ce ne sono molto pochi. E quindi è vero che la colpa è della bolla, ma i politici che non sanno vedere la finanza dove porta e non sanno dirvi la verità sono peggiori della finanza, che ne approfittano e redistribuiscono ricchezza a vantaggio di molti. Non di tutti, ma di molti sì, altro che se è successo in questi anni. Sentiamo come la pensa Alessandra, che ci chiama da Roma. Buongiorno, salve, sono Alessandra, ho 38 anni. Io sento molte cose e molte parole, non ne ho mai sentita una, oligarchia. Io penso che siamo in realtà in una oligarchia, noi non possiamo fare niente perché tutto è nelle mani di pochi che pensano solamente ed esclusivamente a mandare avanti le cose come dicono loro. Non pensano che cosa è meglio per tutti. Nessuno Alessandra, per capirci, ma questo è un sistema che tu dici è l'oligarchia anche nel sistema dei partiti, chiunque vinta eccetera, o l'oligarchia ce l'hai con il governo dei tecnici in questo momento? Anche, secondo me non è cambiato nulla. Io non vedevo l'ora che cadesse il governo precedente, e il giorno dopo che è caduto mi sono accorta che in realtà il fatto che sia caduta una persona non conta niente. Quella persona era solo l'espressione massima di un sistema che è tutto completamente uguale, sia all'opposizione sia alla maggioranza, non cambia nulla, è una mentalità che va avanti da anni e non è mai cambiata. E gli italiani, secondo me, forse non vogliono farla cambiare a questo punto, perché a molti sta bene questo. Ipotizziamo per far capire meglio, però mi interessa sì. Molto giudizio radicale, un giudizio di delusione radicale di quando dice oligarchia. Sì. Ipotizziamo che questo governo adesso faccia davvero quello che dice o ha promesso, insomma, che lo faccia davvero invece di vivere di rinvii, ritardi e delazioni. Lei ha sentito una parola sola sull'abbattimento dei privilegi di cui godono questi pochi? Finora? Sono pochi giorni che ci sono, hanno parlato di IVA che ricadrà su di noi, hanno parlato di ICI che ricadrà su di noi. Di cosa hanno parlato? Allora no. Non è cambiato assolutamente nulla. In effetti, se non comincia da un severo taglio ai costi della politica, approfittando che i partiti dovrebbero dirgli sì, effettivamente temo che la preoccupazione di Alessandra sarebbe ancora più fondata. Intendiamoci, secondo me la preoccupazione di Alessandra è molto fondata in generale, ma perché tutte le società occidentali vivono questa enorme tensione verso la democrazia di massa, partecipativa, i grandi social network, eccetera, eccetera, quando poi la democrazia rappresentativa è fatta da oligarchie? Sì, sì, io non trovo per niente scandaloso il termine che ha usato Alessandra. Ohimè, è così, il problema è di averle un po' efficienti, cioè capaci poi di fare quello che promettono. Nel nostro caso, secondo me, Alessandra, come sempre capita quando dal basso c'è la delusione, ci deve far tutti riflettere. Non vorrei che l'eccesso di speranze verso la democrazia partecipativa partorisse poi solo delusione di massa, e purtroppo io credo che Alessandra abbia molto ragione. Di fatto però io spero che questi ci deliverino meglio, consegnino meglio le cose che hanno detto, almeno alcune. Carlo da Verona, prego Carlo. Buongiorno dottore, parto molto da lontano, io ho 83 anni ma sono un sognatore, qua ci vuole un governo europeo dove a farne parte, a fare i ministri diventano tutti i presidenti degli rispettivi stati, impalmare la suggerimento di ieri di Bonanni, portare l'IVA al 30% e diminuire proporzionalmente il costo del lavoro. Significa avere i costi dei prodotti, lo stesso far lavorare i nostri cosi e mettere una tassa praticamente all'importazione. Lavorare sul cambio, perché è assurdo che ci siamo dimenticati della causa dei nostri problemi, che è stata la globalizzazione. La finanza è venuta per speculare sull'aumento di domande di materia prima di qualsiasi prodotto, che sia energetico, alimentare, cereali e quant'altro. La nostra forza è oggi la nostra debolezza. I cinesi e dintorni non possono trovare un mercato immediatamente sostituire di 500 milioni di consumatori. Abbiamo dimenticato la manifattura e bisogna partire da un concetto di riduzione globale dei costi per essere competitivo. Se non Carlo, io la fermo qua perché la sua ricetta è di grande saggezza, per conto mio la farei sottosegretario immediato nella lista dei tecnici. Ma su quello che ha detto in maniera molto concentrata e nitida Carlo da Verona, ci sono molte delle ragioni e delle terapie insieme per uscire anche con diminuzione dei costi, a più valore aggiunto e riprendendoci un po' la parte del coltello, la parte del manico, verso chi è il motore della globalizzazione, ma contemporaneamente se diventa solo giudice di ultima istanza del nostro debito privato e pubblico ci lascia. Radio 24, la passione si sente.